faccia che ha pure la tua. Ma a me di che si gode, a me la fatti proprio nulla di estasi e porcheria varia. A me la fatti femmina, eccetera, eccetera. Mi dice già un piatto di me. È roba più sana. Ma penso tutti ci abitture, so, fa carità, io non so come fanno a frustrare con la montella. Ma a me ti ho preso un buon bicchiere di vino o qualche bicchiere di birra che è più sano. Non mi sa buccaria, cazzà. Tanto la notte ci siamo trovati con Luciano, tu ce lo conosci. E mi ha fatto, già andiamo a ascoltarci un po' di musica in qualche bar o cosa. E io e andiamo direttamente, eravamo vicino a Coso, vicino al quadrante, io che andiamo a Ussi. E ce ne andiamo a Coso, a Blue Star. E io, siamo andati, no, ci siamo seduti, ci siamo bevuto una cosa, stavamo parlando, perché avevamo dei problemi, stavamo parlando lì. E poi ci siamo alzati per andare in bagno, siamo andati tutti e due in bagno, manco mai eravamo in due. Ho visto un'overdose da estrasi, allucinante qua. Questo qua stava crepando, abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza, abbiamo massaggiato, era viola già, una cinesina. Era un gruppo di cinesi che erano tutti fatti, perché poi ci siamo messi a ballare, questo gruppo si è messo vicino a noi e era tutti con luci in gloria, tutti fatti a estasi. Non le fate il tipo una roba del genere. Ma è meglio pigliarsi la classica embriaghera, doga, quella che fa anche ridere, se proprio ti vuoi far feo. Ah, non va bene, queste sono cose che ti distruggono, no? Ai, è meglio quel bel bicchiere di vino, quel bel bicchiere di birra, va. Alla fine domani ti passa, ma chi sei, quando cominciate a pigliare questa mondetta? Per me è mondetta. Ora ti può far venire un infarto, manco te ne accorgi, lo sai. Perché tu balli, balli, balli, non ti stanchi mai. Sembra che non ti stanchi, però il cuore lavora. Il cuore lavora, tutti gli altri organi lavorano e alla fine poi collassi. Verità di Dio. No. Bisogna lasciare perdere con la roba. No. E ha giudito quella mentalezza, ma è una puttana assai di si buca lì. Ah, tu? Dimmi. Quando ero ragazzo io, avevamo in discoteca per crocerare con le donne, altro che embriachini, estasi e malasusi. Con poco si andava in discoteca, si ballava, si faceva, conoscevi nuove ragazze e facevi nuove crociere. Ah, quello è bello. Invece secondo me un po' di chi sono anche finocchi, secondo me, scusando la frase, perché ti bisogna cuccare, non ho ancora capito. Tu, ci sono tipi che si sconvolgono magari per cambiare anche carattere, magari sono chiusi come carattere e sconvolgendosi così come dicono loro, acquistano una certa simpatia per attirare le donne e cose, si fanno anche più faccia apposta con le ragazze, magari se sono vergognosi magari quando sono sani, quando hanno magari la pasticchetta diventano più faccia tosta, ma che vanno a quel paese là, per non dire la parolaccia brutta. Tu, queste due ragazze erano in bagno, tutti e due, le abbiamo dovuto chiamare 118 la portata d'urgenza, le abbiamo fatto anche il corso, le hanno fatto due iniezioni prima di portarle e poi le hanno portate al pronto soccorso da Ussi. E gli altri erano tranquilli ballando, manco abitate se ne so, quello c'in gloria, tutti i ruighi, rube baroni. Carità, per carità. Cinesi blin blin tutti quanti erano. Infatti gli ho detto a Luciano, cazzo, pure noi bisogna aiutare a fare soccorsi. E vabbè, ma cosa volevi fare? Erano in terra, una era appoggiata alla lavandina, l'altra era in terra. Come siamo messi a finire nell'antibagno, vedi dove ci sono le lavandine e cose. Erano lì. No, sono cose che no, pure da normale, proprio, no, non vanno bene, dai, perché questo distrugge, non va da nessuna parte. Allora, credo sono cose solo che fanno male e basta. La gente è convinta, mi sconvolgo qua, mi sconvolgo là, e dopo è tutta roba che ti fa male, perché è roba chimica, roba che è altamente tossica, eppure la miseria, questi ragazzini adesso per dire hanno trovato la figlia di una mia collega col ragazzo che si era messo da poco, una ciabatta con non so quante pastiglie di estasi andando verso Castel Sardo. Sono cose che secondo me se una persona va a fare il dito non le fa, no, assolutamente, no, se è gente seria, no, io guardo quelle porcherie bisogna lasciarle stare. E ma chi si dice che Lubizzino se la buccia da un mese con questo ragazzo e questo qui ci aveva... Deve essere detto, mi tieni ma dentro la borsetta, come hanno fermato i carabinieri, hanno beccato più di 150 pastiglie di estasi. Deve figurare che l'ha già fatto. Ah già, oggi sono andato a casa di Guido, di arrancare la bombola. La casa già l'aspetto, strano. La luce di quel rossiccio strano. Poi c'erano tutti quei quadri, come ti posso dire, quei quadri con tutti dei disegni strani, ma secondo me chi si ha cattivi di si satanati, non si dice mai. Ha satanato. E quei quadri tipo disegni astratto, così vuoi dire. Gappa, e dove aveva ripeti alla razza. C'è stato che gay. Ah, che no. Di che ti è preso? Ah. L'ho detto, sei un artista. La pagava. E gli artisti già sono strani, Ma io una volta sono andato in una casa, mi hanno veramente invitato. Allora, praticamente era un giorno che noi stavamo facendo un lavoro e avevamo poco tempo, dovevamo smontare dal lavoro, poi andare 5 minuti a mangiare così in fretta e poi tornare a lavorare, nemmeno a riposarci, niente, perché stavamo cambiando tutta la posizione del negozio e dovevamo finire entro la giornata. Infatti avevo finito un bel tardi a mezzanotte, roba così. E poi c'è stato un altro turno che l'ha fatto da mezzanotte fino alle 7 di mattina tutta la notte. Vabbè, tutta la scaffalatura, c'era tutta la roba, cambiare la scaffalatura, mettere le casse in un'altra posizione, insomma un casino, va, tanto a puntare il negozio. Quindi cosa è successo? Che allora di pranzo io non sapevo dove cacchio andare, ho detto che faccio un panino, gli ho detto al mio collega, e dai, vieni a casa di mia cugina, però sono vegetariani, mangiano solo roba vegetale. Vabbè, non c'è problema, a me l'insalata piace, se mi do l'insalata non c'è problema. Fatto sta, sono anche in questa casa, lì questa tipa viveva in una comunità di ragazzi, c'erano ragazze e ragazze, tipo quelli che ce le prese di figli dei fiori, avevano tutti i lampadari fatti da loro, tutti strani, oggetti strani tutti fatti da loro. Era un bel particolare questa casa. E infatti avevo mangiato verdura, finocchi, cose insalata condita con l'olio, con l'aceto e col sale. E avevo mangiato solo verdura, non ne avevamo, mica, solo qua. mi sarei mai detto un petto bagno con la mortale nella sandumi. Che affa. Comunque mai, stavo dicendo poco fa, ma no, con un'impressione sicuramente non si fatto necessario fare, che malato di genere. Se entrano nel corridoio, perché non mi ha fatto entrare dentro, me l'ha fatto lasciare lì. Direi che chissà la grugna, una muscata strana, da quei 30 vesi, in questa luce, ma sicuramente deve essere stato un di, è una persona strana. Ma solo il fatto che non ti ha fatto entrare dentro, qualcosa va a scomparire, ce l'ha fatto. Sicuramente sì, già. Io mi ricordo che ce n'era una vicino a cosa, via Università, in una traversa, quando facevamo fine alla scuola andavamo da questa qua, ci leggeva le mani, beh lo sai che a me mi ha azzeccato tutta la vita. Perché non so cosa avanza avanti Mario. E a questo mondo quanto? Tutti uguali non possiamo essere, è vero, tutti uguali non possiamo essere, ma no! Cazzo da certi che sei niente così, non sai manco come ti comportati, hai capito? Tu basta, non sappiamo qui sopra, una bestina femmina passando in via Roma. Cazzo lì stava via tutti gli anni di me rasati a zero. E lì la coluna che va via di me il 96 rasati, ma lo va via tipo un classe di carro viola, ha detto bubù, ha detto in questo mondo non si sa più come ci si mandati. Quelli sono i dark, si mettono un po' di orecchine, cartelle, di tutte queste cose qui. Che ricordo il capo. Ma presente ce l'hai tu, il casco che usavano i romani. Lui ci aveva i capelli tutti tagliati a zero vicino alle orecchie e cose, no? Poi ci aveva questa cresta di gallo tutta sparata in su con la gelatina e ci aveva i capelli viola. Dice, ma tu, che coraggio vale di scegli secondo il giorno, ma ci compriso. Una volta ho visto una manifestazione, mi sono fermato a vedere che cosa era, li ho visti salendo dove c'era l'otturino Langoia, tra lì vicino ai giardini, avevo questa manifestazione e tutti quelli che c'erano davanti erano tutti dark ed erano incatenati, c'avevano la catena che li legava tutti quanti insieme. I capelli così come se c'è tutto cresta di gallo, rasati, poi tutti viola, ma un viola pazzesco, un altro ce li aveva gialli, insomma erano tutti uno che posso fare di grasso, tutti con queste borchie da tutte le parti, orecchini a gogò che avevano piercing nel sopracciglio, nel naso, nelle labbra, da tutte le parti. E vabbè, gli si se ne vede di ogni maniera, avviso. E gli seguiti vedono nella linea, ma quando sono mai niente, non erano altri partiti, sai cosa? E quando sono ciuppelli. E vabbè, se sai che sei a ciuppelli. Senza pensare cosa che gli ha dato una danza. Per carità, no, no. A chi la passa di sopra andava, ma chi c'ha di sotto, ti vero un birillino, ma chi c'ha di tesa casa la ricca d'Italia? Ah, te Antonio, cazzo siamo di cheggia. Ehi, passa di proprio di dieci cose Antonio guai. Ehi, ma me ne sai che verranno un buon sotto, mi rubisce di... Non hai mai visto già? Di cosa Mario? Ti ho sovramodulato, ho parlato insieme. Ma dici, mi sono bene femmine, chi lo pensi, mi viene nel buono sotto. Ehi, nei capelli, le strappate. Che cosa ti stai sentendo? Ti sei sentito il capo, eh? contagiosa. Studiare, bubù. Guarda, mi sembra contagiosa, bubù. Certo, non sei già tuo figlio. Sì, io ho sentito, non è sempre così. Bubù, andà bene. Gappa, gappa. No, io gli ho dato mega pittetta, no? La salissa che è entrato in un bar e c'era mio cliente, un caffè e vera di San Bessina, chiamandosi in cenata, ha detto lì la fine, ma via un tatuaggio. E lei che San Nicolò ha già fatto, e che c'è la televisione pagando su una piccolina. Scrivere, boh, non me ne affutti nulla di queste cose, tanto sono solo cose che si mandano così non sono cose sincere. No, quelli pace io ce li mando, mando in pace, mando in cuori, mando anche un'altra cosa qualche volta. Dai, la minchia di ciò, dai. Poi, ma io l'ho fatto una volta, poi tutti quanti si aggregavano, facevano, no, no, a carità. A me piace scrivere, rispondere a chi mi scrive e via, basta. Ma lo sai cosa abbiamo mandato, amico, a Natale? Siccome prima l'ho fatto uno io, no? Diciamo, e poi l'hanno fatto anche un altro, la stessa cosa che l'ho fatto l'altra, l'hanno fatto a me. In pratica mi hanno mandato un regalo, no? Un regalo, diciamo, multimediale, dai, così scritto. E dovevo aprire questo pacco, e il pacco sia quella là che a me l'hanno fatto uguale. Mi hanno mandato un piatto di, come dire, di pene condite. Vabbè, virtualmente vanno anche bene. Ci rimane male perché quando apre il pacco vado a fare il mio piatto con tutti quelli posizionati, capito? Vabbè. Tu mai non ci vai su Facebook, cioè su Facebook, computer, non ci vai, no? No, io ho il computer, quando mi devo rilassare, sai che cosa faccio? Mi metto il flipper e mi gioco col flipper oppure con le carte. A me detta su Facebook non mi interessa ma nulla. E c'è anche mia figlia, c'è mio figlio, c'è tanta gente che conosco, ma io non lo metto. Ah, è bello, no? Si può, qualche volta si scatti anche lì, ma poi io ho anche tanta gente in cui la Germania, cose così. E il campagna, no, c'è molta gente che io conosco, poi ci sono tutti gli amici di mio figlio, della ragazza di mio figlio, ci sono i cognati, la Porta Torres, e c'è tanta gente che conosco, però io non vedo a chi, io voglio 57 anni, non è che mi devo a un campo di creaturi. C'è tanta cosa. Scusate, non avrei 10 anni che mi manca per la vostra, mi sta inviando una cosa Gianfranco, riprendete voi. No, ma vabbè. Ma l'ho sempre distratti Mario, non è che. Io non so che cosa c'è di bello, ho ritrovato amicizie di quando ero in infanzia. Gente che non vedo da 30 anni, 35 anni, un bel di persone, ma un bel barone. E poi sono andato a cercarmi le mie ex e qualcuno l'ho trovata, ma non l'ho contattata. Ma com'è che tua moglie non ti ha lasciato il computer? Non è gelosa? Se non vede, sì. Che non è geloso. Se non vede mi tocca russi. No, ma una cosa è cercare per vedere se effettivamente facevano le stesse cose che facevo io. L'ho fatto solo perché non mi ha fatto nulla di contattarmi. Qualche amicizia, qualche amica vecchia, vecchie amicizie, ho trovato qualcuno e quelle però li ho salutate, sono entrate, gli ho chiesto l'amicizia, eccetera. No, sono cose che ti fanno piacere, dai, sono cose belle. Belle perché poi con i vecchi amici gli ho chiesto cosa facevano, che tipo di lavoro hanno trovato, e sono tutti belli sistemati. Uno lavora in prefettura a Cagliari, si è laureato, lavora a Cagliari in prefettura, è anche un pezzo grosso. Un altro è Federico Avvocato, quello lì, vabbè, era in classe con me e sta facendo l'avvocato. E insomma, sono quasi tutti sistemati molto bene. Vabbè, capa, ma serve a studiare. E anche tu magari se avessi fatto qualche lo dico ingegnere, ma almeno geometra. Io che ho studiato, non è che non ho studiato, io le superiori le ho fatte, però per quello che ho fatto io purtroppo non c'è più campo. Per vedere che nel computer anche tu, no? No, no, io ho fatto le professionali ed ero saldatore elettro ossia acetilenico e ho preso quella qualifica lì. E avrei dovuto lavorare alla Montuglia, a Porto Torres, ho fatto le prove e tutto, sono stato un mese e poi ha chiuso, quindi sono stato sfigato e basta. Ecco, poi ebbene, non hai mai pensato di andare sul continente? No, non mi piace mai la vita, preferisco qua. Ho fatto anche l'assicuratore, qua l'ho fatto come assicuratore, ho lavorato all'Antini, ne ho fatto altri lavori prima di questo, ma qua ci sono già 29 anni. All'Antini con chi si comporta? Scappa. Eia. Con Bobo e col padre, il padre era direttore, allora quando era via Ussi, però se ti ricordi. Nella lavanderia. Sta partendo. Sta già dando i segni, chiudi tutto l'elenco. E che appagato, no, io già li ho conosciuti tutti, ho conosciuto anche a fratello che faceva l'autista, per Pangelo. E per Pangelo, lo conosco anche io. Perché sono per lui sono già dato in pensione, a Lussu e a Manca conosciuti direi. Sì, Manca era di Porto Torres. Cappa, esatto. Adesso è morto. Morto, eh? Io viaggiavo con quello lì, oppure viaggiavo con Pierpangelo, andavo a Nuvolo. È vero, però quando andavo con Pierpangelo era un'avventura, cazzo. Mi arrivavamo sempre di cose, di vicini, di piedi d'accordo, gli imbriachesi, mi dava Pierpangelo. Se no Lusso non era embriagone, per carità, coso no, Manca non c'era, Manca quello che faceva servizio al Rai, che poi c'era l'altro, come si chiamava, non me lo ricordo. Ma è due a Pillari, a Pillari li ho conosciuti tutti quelli che erano con Pondani. Io ci ho lavorato con Pondani, ci ho lavorato quasi 4 anni. Io c'ero pure quando saltando la canna se ne ha tracciato il dito, mi dice, si è agganciata la pelle alla sponda, lui stava saltando la canna, avevano appena scaricato e il cane andava di ricca e lo guidava una donna, quell'articolato lì, e veniva a carico di pedaggi, lo dovevamo scaricare tutto a mano perché non era neanche su pedane, capito? E lo dovevamo scaricare a mano, era il tipo quando ha saltato dal camion, gli si è agganciata la pelle alla sponda e è rimasto lì di sopra. Ma il tipo chi era? Uno che lavorava con voi? Uno che era con lui scaricando in carovana, con il signor Luigino, con Facinito, là. C'era pure Vanni, Forza 9, a quel periodo lì. Ma io lavoravo con la caravan, quella che c'era prima. Allora tu eri prima di lui, là. Cappa, la caravan c'era prima, ti ricordi? Di Andrea Costa. Sì, e poi gli ha pigliato tutto il signor Luigino, Vaccinito. Cappa. E già aveva sia quello e la Golland. Prendo io, dai, che se chiudo me ne vado a letto, dai. Buonanotte, ce la ascoltiamo tutta domani, ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte per pace, sentiamo, stiamo bene, avanti. Ciao, io rimango un altro pochettino, poi pure io chiudo. Vabbè, Mario, avanti. Ciao per pace, buon pomeriggio, tutto. 244 riguarda, dimmi, domani non farò manco. Anche domani pure vado a prendermi a Gattombare. È stato un poco riguardato. E niente, no, ce la risentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Di ovviamente ce l'hai conosciuto, quello che avevamo la cornacchia, era il magazziniere, quello con gli occhi verdi, come si chiamava, ma quello con gli occhi verdi che aveva il camice nero, sempre lo chiamavamo la cornacchia, era di produttore, poi c'era Giacconi quando c'ero io. Già, ma anche quando c'ero io c'era Giacconi. Bravo, lui lo vedo tuttora in pensione. Esatto, no, io sono andato dopo, quando è? No, prima di Natale sono andato lì alla Tini, e che adesso è al mercato ortofrutticolo, però dietro, come dirti, quei capannoni che ci sono dopo il mercato, dopo il bar, nell'uscita verso Sant'Orsola, ci sono quei capannoni. Lì in fondo c'è il capannone di Ponda, però non c'era signor Ponda quando sono andato io, c'era tutt'altra gente e non ho visto neanche Pierpaolo, ma forse Pierpaolo si è andato in pensione, anche perché il figlio di Pierpaolo sta lavorando con l'Eurosabra. Sì, tutta la ditta è da, anche l'Eurosabra la fanno loro. Però ti stavo dicendo, ma il padre perché è ancora entrato là fatto, non era tutto di bobo. Ah boh, io credo che era tutto di bobo, ma quando era la Temi era su, poi la lì si è spostata di fronte al cimitero, allora, poi da di fronte al cimitero dove c'era via Vai, lì ci sto parlando, che c'era anche la Sife, poi di fronte al cimitero dopo Santa Maria, poi da lì adesso sono lì giù a, diciamo così, vicino al mercato ortofrutticolo. E allora Bobo si è messo una ditta contro il suo, perché lui c'era, lo sai dove? Allora, di fronte alla centrale del latte, entri dritto, vai dritto per andare, cosa ti posso dire, dove c'era Portobello prima, di fronte c'è la ditta di Poda, però Poda autotrasporti, forse ha cambiato, non ha più Lattemi, ma c'ha la ditta, si è messo una ditta a conto suo, e Lattemi ha continuato magari con qualche un altro, probabilmente così. Poi c'era Gianni, il pugile, che faceva l'autista, guidava il furgone. No, furgoni quando c'ero io non ce n'erano. C'erano, allora, 1, 2, 3, 4, 5 camion di quelli tipo Lupetto, che caricavano chi c'aveva la zona di Orizzano, chi c'aveva la zona di Nuvolo, o Pierpaolo e quello di Portatore c'avevano quello sempre la zona di Nuvolo. Poi gli altri zona di Orizzano e poi gli altri della zona della parte di Tinto, della Magnaluna. E non c'era altro, poi c'era quel signore anziano che credo che sia anche morto, perché non l'ho più né sentito né visto né niente, quello che guidava il cane dell'Eurosabra che li portava lì alla Timi. E niente, e poi c'eravamo noi della carovana, e c'ero io, c'era mio fratello, c'era Vanni, e lì era Luigi Novacinito, che era rumoroso, però lui era sempre in giro, lui veniva, controllava per vedere se c'era roba in arrivo da scaricare per mandare più uomini, perché a noi secondo i giorni ci spostava, perché io per esempio ero sempre con Pierpaolo o con quell'altro di Portatore a consegnare, invece quelli che rimanevano lì per scaricare gli articolati e coso, Luigino veniva, abbaidava, se c'era bisogno li mandava dalla Gondrad, che allora era per Daniela, li mandava dalla Gondrad all'Antibi, oppure viceversa, se c'era più lavoro alla gondola, li pigliava dall'Antibi e li portava giù. Ma questo Luigi no, cosa ha lavorato con l'aereo bianco? Allora già ho capito che è quella ditta che è entrata dopo di noi. Ho capito. E guide telefoniche aveva scaricato lì? No, guide telefoniche no. Guide telefoniche niente. Noi ci avevamo, diciamo, i pacchi che andavano e venivano, come può essere la Nido, e più ci avevamo la Lirica, perché della Lirica era, faceva deposito lì a Latini. Infatti per cosa della Lirica avevano sequestrato, forse l'avrai anche visto, un Dino Fiat che era sempre parcheggiato lì a Latini. E perché lo sequestrato? Perché non avevo pagato il conto, credo. Perché la distribuzione, il deposito ce l'aveva posta. Vabbè, comunque li ho conosciuto tanti. A me arrivo a fare Martini. Autotreni Martini, allucinante, va. Un bel. E capo di positivo, no, e poi da allora ne faceva guidare pure la macchina sua, il Maggiolone, non so se te lo ricordi, della Volkswagen e Caprio che ci aveva, mi ha portato in campagna, a campagna sua, giù a Canica. Sì, ma c'è proprio c'era una persona in gamba. E Pinuccio, conosciuto lei? Sì. Pinuccio già sta guidando il servizio Ride, mi pare, vero sta facendo? Ah, Pinuccio è entrato al posto di Vanni. Vanni, dopo che era andato via da lì, era andato alla Ride, che faceva... Allora, Vanni prima faceva... C'aveva il cano che c'era scritto Fiat Lancia, e andava anche sino giù a Cagliari a portare i pezzi di ricambio della Fiat Lancia. E quello lì era lì. Poi Vanni gli avevano cambiato il coso, gli avevano tolto il camion Fiat Lancia ed era entrato Pinuccio a guidare quelli lì. E Vanni era passato alla Raide, e poi erano sempre lì. Sì, infatti. Il servizio Raide lo faceva manca, quello del produttore. Poi è entrato Pinuccio, l'ha fatto lui. Adesso mi pare che Pinuccio, no, Gianni se n'è andato, Gianni quello che faceva il pugile se n'è andato con Bobo a lavorare. E poi, dopo che è stato lì, ha vinto il concorso all'asta, sta guidando il pullman. Gappa. Vabbè, adesso anche Vanni è andato in pensione, me. Qui Vanni l'avrei conosciuto, Vanni entrava pure in frequenza con il nome attivo di Forza 9. E già l'ho conosciuto, ne conoscevo tutti di capito, compreso il padre di Bobo, che era direttore allora lì dell'attivo, quando c'ero io. Capo di positivo. Bobo era un dirigente, diciamo, e poi c'era Gavino, visto di Bussodorra, che chiamavamo la cornacchia perché si vestiva col camice nero. Ma quello stava quasi sempre in ufficio, veniva solamente così di tanto in tanto dentro da noi, che poi da noi, io lo vedevo poco e niente perché lo vedevo la sera quando arrivavamo che dovevamo caricare per l'indomani, perché lì dovevi essere intorno alle 4, dovevi essere lì, perché se c'era qualche cliente che non trovavi o che era chiuso, che allora nel parco ritornava indietro, scaricavamo quella consegna, perché qualcuno ci avanzava sempre. E niente, una volta scaricato dovevi caricare per l'indomani mattina, e l'indomani mattina dovevi alle 5, alle 6, dipende che giro arrivi. A me non si disegna, a chi non lo so. E la sera dovrei ritornare verso le 9 e mezza, alle 10, quando andava bene. Io, per dire, io viaggiavo con Luz, ci avevamo tutto quanto il giro, la Maddalena, Palau, che lì c'era il traghetto. Dopo ci spostavano verso il Nuorese, ci davano bolle miste. Non è che lui si incazzava molto, perché diceva almeno dammi tutta la stessa zona, no? 50 zone mi dai. Quando c'ero io era tutto ben organizzato, perché c'erano due camion che facevano la zona di Nuoro. Uno che faceva la zona di Cagliari e uno che faceva tutta la zona della Gallura. Capito? Così che eravamo ben divisi, perché la zona del Nuorese era molto grande, perché abbracciava anche qualche punta dell'Uresanese, perché quando andavi giù in fondo praticamente ti davi anche qualche paese dell'Uresanese. L'altro invece faceva la parte alta, tipo Macomer, Mosa, capito? E si dividevano, loro se lo dividevano in due, perché c'era quello di Porta Torres e più c'era cosa, perché per loro ne avevamo sempre di più come consegne. Poi l'altro invece bastava un camion per fare la zona di Oristano e l'altro faceva la Gallura. E se la alternava la Gallura con la parte di Porto Torres, Alghero, ho capito, poi magari uscì.